Focus Economia. Sette e 13 minuti, gentili ascoltatori, eccoci qua, una puntata rivoluzionata di Focus Economia, più delle festività di Natale che ormai sono vicinissime. È la giornata davvero complicata e caotica per quanto riguarda il maltempo e le ripercussioni sul traffico ad aver messo a soqquadro la redazione di Radio 24, anche quella economica oggi, per cui Sebastiano Barisoni, che normalmente a questo ora vi accompagna con le notizie economiche della giornata, in questo momento è non lo so dove, in mezzo al traffico a Milano, credo che stia arrivando, ed è ovviamente bloccato dalla neve. Insomma, a minuti ci raggiungerà, prenderà, io credo e spero anche per voi, perché insomma è lui che ogni giorno vi accompagna con queste notizie, che dovrebbe farlo anche oggi. Invece ci sono io, Alessio Maurizi. Insomma, cercheremo comunque di dare uno sguardo alla giornata dal punto di vista delle notizie economiche, magari sorvolando un po' su certi approfondimenti che normalmente Sebastiano Barisoni fa a quest'ora da questi microfoni. 349-238-6666, il numero per i vostri sms, è sempre quello, magari anche per segnalarci qualche disagio particolare che riguarda il traffico nelle zone dove vi trovate. Abbiamo fatto una edizione allungatissima di GR24 proprio per cercare di dare una panoramica completa. A proposito, a quest'ora abbiamo la pausa per le informazioni? No, non c'è la pausa, l'avremo più avanti. Invece cominciamo con le principali notizie della giornata. E cominciamo con il prezzo del petrolio. Come consuetudine, nei primi scambi sul mercato di New York il petrolio è in rialzo dello 0,4%, adesso raggiunge 73,62 dollari al barile. E invece, per quanto riguarda il mercato dei farmaci, il colosso farmaceutico Sanofi Aventis ha raggiunto un accordo per acquistare la società statunitense Chatham, spero che si pronunci così, per 1,9 miliardi di dollari. Di questa notizia ci occuperemo più avanti con uno degli approfondimenti di giornata. E invece la notizia a cavallo tra Milano e la Spagna, perché al termine del riassetto previsto con l'acquisto da parte di Telecinco, che fa parte del gruppo Mediaset, del canale televisivo 4, questa operazione di cui si è letto già oggi anche sui giornali, e della quota del 22% della pay TV satellitare Digital Plus dal gruppo Prisa, il Biscione avrà a questo punto il 41,3% complessivo della società spagnola e, tra l'altro, secondo i primi calcoli, Mediaset diventa forse il primo operatore in Europa per quanto riguarda la TV commerciale. Salterei alle notizie così, diciamo, macroeconomiche di contorno di questa giornata dal punto di vista economico-finanziaria. Andrei negli Stati Uniti, dove il Senato americano ha aperto la porta all'approvazione entro Natale della tanto attesa e sospirata riforma sanitaria, che ha passato con tutti i 60 voti dei senatori democratici, il primo dei tre voti procedurali che metteranno fine, almeno così Obama auspica, al dibattito, per passare poi all'approvazione finale. Ricordo che il testo del Senato promette di assicurare oltre 30 milioni di americani attualmente senza mutua ad un costo di 871 miliardi di dollari in 10 anni e con la prospettiva di 132 miliardi di dollari di riduzione del deficit. Notizie dal fronte dell'Unione Europea, perché c'è una valutazione della situazione economica che viene proprio da Bruxelles. La grande recessione è finita nel terzo trimestre del 2009, una valutazione che si aggiunge a quelle numerose già uscite in queste settimane, ma, dice Bruxelles, la ripresa resta legata alla enorme massa di aiuti pubblici messa in campo dai governi e le prospettive di questa ripresa restano quindi cariche di incertezza, è quello che emerge dal rapporto della Commissione Europea. Adesso un paio di notizie che riguardano l'Italia. Il rapporto del Censis sulla sanità: nell'ultimo anno in Italia il 35% delle persone si è rivolto alle strutture sanitarie pubbliche. E fin qua non c'è niente di nuovo. Dov'è la novità? Accettando, a quanto pare, liste d'attesa più lunghe per ottenere prestazioni che in altri tempi, in tempi migliori, avrebbero acquistato direttamente da strutture private pagando di tasca propria. Cioè, questo sarebbe quindi, secondo il Censis, un segno evidente della crisi economica. Infatti, prosegue la nota, gli effetti della crisi economica sul rapporto degli italiani con la spesa per la salute si sono manifestati nella tendenza a ricorrere più che nel passato alla sanità pubblica, accettando magari maggiori disagi e tempi più lunghi per contenere però la spesa privata. E poi la notizia che riguarda la RAI, l'avete sentita anche dal giornale radio: il vice ministro Paolo Maroni ha firmato il decreto che fissa la quota del nuovo, la nuova quota del canone annuo della RAI, che sale in base a quella che è l'inflazione programmata da 107,5 euro a 109 euro. Ancora una dichiarazione del ministro Scajola che riguarda la Fiat. Domani ci sarà la presentazione del piano industriale del Lingotto e ci sono anche le code, gli strascichi sindacali con il gruppo di lavoratori di Termini Imerese dell'indotto, che in queste ore sono proprio davanti a Palazzo Chigi e stanno per organizzare una manifestazione. Questo però sarà la cronaca di domani. Dice Scajola: ci auguriamo un forte impegno da parte di Fiat, che cresce nel mondo, perché cresca anche in Italia. È questo l'augurio che il ministro dello sviluppo economico formula alla vigilia della presentazione, come dicevamo prima, del piano Fiat per l'Italia a governi e sindacati. Adesso andiamo al primo approfondimento di giornata. Sono 17:19, vi ricordo l'edizione un po' scombussolata di Focus Economia questo pomeriggio, in attesa che il conduttore della rubrica, Sebastiano Barisoni, torni dai meandri del traffico milanese, dove è rimasto bloccato per via della neve, ma non siamo sicuri che questo avvenga. No, in realtà lo speriamo, però la situazione è davvero caotica e quindi non lo so. Andiamo avanti per ora con questa formazione. Dicevamo, primo approfondimento di giornata. Pochi giorni dalla fine dell'anno, vogliamo tornare sul tema di come introdurre nuove regole nella finanza globale. Un discorso molto complicato, perché insomma non c'è accordo tra le autorità di vigilanza, ma neanche tra quelle politiche. È tornato prepotente, lo hanno riportato le cronache dei giornali recentemente, il tema dei bonus ai manager finanziari e bancari, anche come controllare il risultato di certi manager, soprattutto nel mondo della finanza e delle banche, rispetto ai premi che prendono. Un tema di attualità, anche perché abbiamo visto già dalla seconda parte del 2009 le grandi banche d'affari americane, ma non solo quelle americane, sono tornate a macinare utili e quindi ad accantonare premi. 61 milioni fino ad ora il dato su quanto accantonato dalle banche americane da distribuire poi come bonus. 61 milioni, pensate. Miliardi, ecco, la correzione arriva dalla redazione, miliardi naturalmente, perché parliamo poi di dollari. C'è stata sì la decisione di Goldman Sachs di tradurre i bonus non in soldi ma in azioni, dove avere già accantonato bonus per 17 miliardi di dollari nel 2009, in media 527 mila dollari a dipendente, e dopo che nel periodo più intenso della crisi aveva ricevuto 10 miliardi di dollari di aiuti. E anche questo è un tema che non è passato naturalmente inosservato e ha sollevato anche molte critiche, credo anche giustamente, visto lo sforzo economico che è stato fatto dai governi per salvare le banche. Adesso si vede che tornano a distribuire bonus, non dico allegramente, ma insomma tranquillamente. Questo preoccupa i risparmiatori. Abbiamo visto in Gran Bretagna l'iniziativa, quella per esempio della tassa una tantum del 50% su tutti i bonus nel settore bancario che superino le 25.000 sterline. Un plauso è arrivato naturalmente a questa iniziativa inglese sia dalla cancelliera tedesca Angela Merkel che dal presidente francese Nicolas Sarkozy. hanno detto: questa è un'idea giusta, quella di tassare i bonus. Chissà a questo punto se la mutueranno, se la copieranno questa idea. E allora Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Guido Rosa, presidente dell'AIBE, che è l'associazione banche estere in Italia, riunisce 39 gruppi finanziari, tra cui ve ne cito solo alcuni per capire l'importanza: BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Stanley Credit Suisse, ma anche Royal Bank of Scotland. La prima domanda che a Guido Rosa è stata rivolta è come valuta questa proposta inglese che dicevamo prima, quella di una tassa, una tantum sui bonus nel settore bancario. Sentiamo. Ma dunque, questo è un argomento estremamente delicato che io affronterei con grande prudenza. Prima di tutto perché qui siamo nell'ambito di un rapporto privatistico tra aziende e manager, ed è quindi secondo me molto difficile poter pensare di regolamentare una cosa di questo genere. Naturalmente mi rendo conto che certe cifre possono fare in qualche modo scalpore, ma bisogna anche tenere presente che in realtà qui valgono un po' le regole del mercato, cioè voglio dire, se ci mettiamo a regolamentare per legge questo tipo di rapporto che è estremamente privatistico, cioè tra datore di lavoro, tra azienda, e dopo si stabiliscono dei principi sui quali è molto difficile ritornare. Peraltro, anche pensando al sistema della tassazione della quale lei giustamente ha parlato e che probabilmente verrà applicata in alcuni paesi, beh, francamente anche lì devo riconoscere che mi lascia alquanto perplesso, perché insomma c'è un principio per il quale mi sembra di poter affermare che non c'è nulla di male a che certi governi portino il regime di tassazione a certi livelli, ma che si faccia una discriminazione tra come uno guadagna quei quattrini, quando sono naturalmente guadagnati in modo legittimo rispetto ad altri, mi sembra un principio francamente piuttosto pericoloso. La mia impressione personale è che questa della iperregolamentazione e addirittura della tassazione sia una strada non proprio molto facile da percorrere. Io invece porrei una metodologia che mi sembra molto diversa rispetto alle altre, ed è quella di non premiare i manager nel breve periodo, in qualche modo di farli diventare responsabili non solo degli iperutili di qualche anno, ma delle performance dell'azienda su più anni, quindi di farli anche diventare responsabili qualora e negli anni in cui l'azienda perda dei quattrini. Questa mi sembrerebbe una strada da percorrere non per legge ma per libera decisione delle aziende, che potrebbe portare stabilità, un po' più di equità e soprattutto uniformità e stabilità di risultati delle aziende, che è quella che viene in qualche modo cercata e che secondo me è fondamentale da ottenere per il bene un po' di tutti quanti. Sì, mi sembra che lei dice, tutto sommato leghiamo i bonus, i risarcimenti, i premi al manager delle banche o di società finanziarie a un periodo temporale più lungo, in modo da evitare speculazione breve. Mi sembra che però sullo sfondo ci sia anche il tema un po' più ampio di capire come si va a giudicare quella che alcuni hanno definito una nuova casta, cioè la casta dei manager finanziari, non tanto dei banchieri d'affari ma dei manager finanziari complessivamente dati, perché riguarda anche figure non solo di vertice, nel senso che, l'abbiamo detto più volte, alcuni manager si sono arrabbiati, noi ci rivolgevamo soprattutto al mondo della finanza, ma insomma da un lato l'imprenditore o la partita IVA è vero che ha guadagni anche importanti ma rischia di suo e quindi sta sul mercato a titolo pieno, dall'altro il lavoratore dipendente è vero che ha stipendi anche bassi spesso ma molte garanzie, e alcuni dicono che lavori anche poco quando è dipendente pubblico, mi sembra una generalizzazione, ma comunque in mezzo c'è questa figura del manager, che quando è un manager di un gruppo finanziario, ne abbiamo visto, insomma, tornare a macinare utili, e questo ci fa piacere, ma dall'altro subito tutte le banche hanno accantonato soldi per i bonus. Ora, con quello che era successo nel 2008 e anche inizio 2009, forse accantonare 61 miliardi di bonus o in Goldman Sachs 17 miliardi, che equivalgono quasi a una manovra finanziaria, poteva non essere la priorità. Dottor Rosa, Presidente Rosa, c'è la sensazione che quella sia una casta autoreferenziale, cioè che non guarda nemmeno più e ha perso anche il contatto con l'opinione pubblica, con quello che il mondo sta affrontando, anche per colpa di ciò che hanno combinato queste banche d'affari americane, ma non solo. Ma dunque, certamente, se guardiamo queste cifre da un punto di vista macro, fanno sicuramente impressione e fanno sicuramente paura. Sul piano dell'analisi generale e dell'attribuzione dei valori, condivido anch'io questa opposizione. Anche a me fa certamente specie vedere cifre di questo genere e vedere dei managers che sono in qualche modo premiati o iperpremiati, e soprattutto perché hanno la fortuna, tra virgolette, di lavorare in settori che creano grandi utili. Peraltro, quello che io sto dicendo, sai, è molto difficile poter dare un giudizio di valore tanto e troppo o no, è che oggi i meccanismi sono tali per cui queste sono le regole di incitazione, di incentivazione dei managers nelle aziende. Ora, credo che non sarà molto facile obiettivamente poterli regolamentare per legge o poter in qualche modo colpirli con della fiscalità diversa e particolare. Direi quasi che si viene, poi lo Stato rinuncia a dei principi di equità nel trattamento fiscale di tutti, semplicemente perché uno ha fatto i soldi facilmente, non è che può essere ipertassato. Purtroppo io ritorno in qualche modo alla mia idea iniziale, che deve essere un lavoro di costante convincimento e di acculturamento di tutto il sistema, anche delle aziende, che debbono in qualche modo far sì che questi premi, che molto spesso sono anche alla base di alcuni risultati eclatanti, vengano erogati in maniera non molto più costante, perché vede, la questione fondamentale è che il premio erogato sulle prestazioni di un anno incita evidentemente il manager a fare in modo che ci siano dei grandi profitti in quello stesso momento, e perde un po' di vista, probabilmente è anche umano che sia così, invece la visione di lungo periodo. Questo deve essere cambiato, più che affrontare, secondo me, il tema del dire se a certe cifre sono eccessive o no, perché poi diventa veramente molto difficile farlo. La questione è di rendere questi bonus molto più spalmati sul tempo, in modo da eliminare anche questo desiderio che hanno le aziende di creare profitti nell'immediato, perdendo un po' di visione la prospettiva a medio termine. Ho capito, quindi legali a un periodo di tempo più lungo, 3, 4, 5 anni. Un'ultima domanda, Presidente Rosa. È chiaro che un altro tema grosso per quello che riguarda il mondo delle banche, banche d'affari in primo luogo, società finanziarie, nel 2009 ha riguardato le regole. Ora, non si può certo imputare a quello che deve essere regolato in non aver fatto delle regole su se stesso. Cioè, voglio dire, se le autorità di controllo, la Consob italiana, le banche, la SEC americana, le varie banche centrali non sono riuscite a trovare delle regole condivise, i cosiddetti Global Legal Standards, non è certo colpa vostra che dovreste essere i vigilati, non i vigilanti. Però su questo, secondo lei, non rischia di pagarne poi anche il sistema che lei rappresenta? Cioè, se poi dovesse generarsi una nuova fuga in avanti di alcune banche d'affari che fanno investimenti avendo completamente perso il senso del rischio, poi ne risente tutto il sistema, non sarebbe auspicabile anche da parte vostra che i vari paesi, cioè le varie economie, Europa, Stati Uniti in primo luogo, trovassero un accordo su questo con autorità di vigilanza assolutamente, da questo punto di vista, perlomeno che si parlano, che condividono le informazioni? Condivido assolutamente questa sua analisi finale. Il punto fondamentale è, secondo me, questo, che bisogna trovare un giusto equilibrio tra un mercato che in qualche modo deve essere regolamentato e un mercato che deve essere libero. Dico un giusto equilibrio perché nessuno, penso, immagino, voglia pensare a un'attività talmente regolamentata da pensare a delle economie di tipo statalistico. Peraltro sappiamo che il mercato, lasciato completamente libero a se stesso, può creare anche delle distorsioni. La mia impressione, qui lo dico veramente contro tendenza, è che il problema non è quello di mettere regole. Di regole ce ne sono, mi creda, ce ne sono tantissime. Ci sono le regole naturalmente del codice civile, le regole fiscali, le regole, pensiamo per esempio all'Europa, che sono imposte dalla MIFID, ci sono le regole di Basilea 2, ci sono regole che sono imposte dalla Consob. Di regole ce n'è un sacco, dappertutto. La questione fondamentale, secondo me, non è di mettere nuove regole, anche perché regole a livello internazionale sarebbero poi estremamente difficili da fare applicare. Io forse avrete letto un articolo un po' di tempo fa di Guido Rossi sul Corriere che addirittura evocava l'ONU come entità che poteva in qualche modo gestire queste regole internazionali, cioè un dream, un sogno, una cosa irrealizzabile. Invece, in maniera molto più realistica, bisognerebbe che queste autorità di vigilanza, che hanno il potere di farlo, sia in Europa e soprattutto tra Europa ed America, e questo do pienamente ragione a lei, si coordinassero in modo tale da esercitare con efficienza il loro ruolo di vigilanti. Questo oggi non succede. O succede in maniera molto frastagliata, ci sono autorità che si pestano i piedi una con l'altra, abbiamo visto in Europa che anche l'ultimo tentativo di fare, che è già un piccolo passo avanti, una vigilanza di tipo europea, ma comunque ancora ben lontano dall'essere efficiente, e a questo punto poi bisognerebbe assolutamente fare in modo che le autorità di vigilanza europee, pur nella loro limitatezza, si coordinassero con le autorità di vigilanza, qualunque esse siano, degli Stati Uniti. In sintesi, a mio modo di vedere, come spesso succede, è inutile evocare dei sogni, di mettere nuove regole. Siamo molto più concreti con i piedi per terra e facciamo in modo che le autorità di vigilanza e che i governi, le autorità politiche, mettano in condizione le autorità di vigilanza di fare correttamente il loro mestiere, di applicare le regole attuali e che queste regole siano poi sanzionabili. Perché è inutile poi avere delle regole che vengono applicate se non sono sanzionabili. Così dunque l'intervista a Guido Rosa di Sebastiano Barisoni, che finalmente, e la notizia è questa, ci ha raggiunto dal traffico dopo una giornata terribile in mezzo alla neve. Sebastiano, riprendi il microfono, fra l'altro annunciamo tra poco una finestra informativa, così diamo anche un po' di informazioni davvero utili, speriamo. Sì, grazie Alessio, grazie anche per la disponibilità. :17:42, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora riprendiamo, cerchiamo di riprendere le fila di questa puntata. Come già avete ascoltato, alle 18 comunque il programma oggi si interromperà perché avremo uno speciale dedicato proprio alla situazione che sta diventando sempre più critica a causa maltempo. Oggettivamente poi non si capisce anche perché, ma non parlo in quanto parte in causa. Subito la borsa. +1,2% Milano e anche sul FTSE All +1,1%, bene, molto bene Parigi, +2%, Francoforte +1,70% e ancora Londra +1,90%, l'America sta guadagnando l'1% sul Dow Jones e l'1,2% sul Nasdaq, euro sempre debole, ormai viaggia a quota 1,429, 1,43 nei confronti del dollaro. Subito i titoli, oggi molto forte e poi ce ne occuperemo anche dei motivi. Mediaset +4% a €5,62, poi bene Bulgari +2,80, bene anche Eni +2,7, Geox +2,5, Impregilo +2,4, le CIR +2,3 come Tenaris e Mondadori e anche Ansaldo e Telecom Italia. Il 2% lo guadagna Exor, il 2,1 Unipol, l'1,7 A2A, infine un punto e mezzo percentuale rialzo di Atlantia, Mediolanum e delle generali, bene anche Autogrill +1,3 come Ubibanca, Saipem e Terna e il Monte dei Paschi. Chi ha perso? Snam Rete Gas il 2,5, Finmeccanica l'1,7, il Banco Popolare lo 0,80%. L'onore Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dal titolo che più vistosamente è calato oggi, Snam. -2,5%, c'è una notizia che era presente sul nostro Plus, quindi l'appuntamento settimanale del Sole 24 Ore per finanze e risparmio. Esattamente, infatti Plus di sabato scorso sosteneva che c'è l'ipotesi che Eni scenda dall'attuale 50,03% del capitale a una quota inferiore appunto al 50% del capitale Snam. Il mercato quindi ha iniziato a vendere le Snam perché questo significherebbe che arrivino nuove azioni sul mercato. In verità poi è uscita una nota di Eni che in parte ha confermato la notizia, nel senso che la società ha detto che effettivamente sono allo studio riassetti una riorganizzazione del gruppo, anche se ha precisato in verità al momento le operazioni non sono ad uno stato avanzato tale per cui richiedano ad esempio l'intervento degli organi decisionali. Ma il titolo come mai cede in caso di una discesa di Eni sotto il 50% nel capitale? Infatti è quello che ho chiesto agli operatori, perché anzi spesso il fatto che scenda sotto il 50% e diventi quindi contendibile la società viene apprezzato dal mercato. La risposta è stata che in verità in prima battuta questo significherebbe l'arrivo di numerose azioni Snam sul mercato, poi è tutto da vedere come verrà strutturata l'operazione. Oggi circolavano più ipotesi dal fatto che appunto vengano collocate azioni sul mercato all'eventualità che Eni distribuisca dividendi sotto forma di azioni Snam, ma ripeto, queste sono voci e ipotesi. Comunque il timore di azioni che arrivino sul mercato ha trascinato in basso le quotazioni di Snam. Allora, di Mediaset parleremo tra un attimo, perché abbiamo un approfondimento proprio sulle fusioni e acquisizioni di questo anno che si sta chiudendo. Bulgari più 2,80% si avvantaggia del dollaro forte, Eni più 2,6%. Eni, guarda, è andato bene tutto il settore petrolifero energia. Europeo. Il sottoindice ha registrato la miglior performance in Europa, più 2%, e in effetti appunto anche a Milano Eni è stata uno dei migliori titoli. Bene, Geox, in pregiro immagino che qui sia l'attesa per il via ai lavori del ponte sullo stretto. Esattamente. E ancora, per quello che riguarda Mondadori, più 2,3%, Ansaldo CTS più 2,3%. Telecom Italia, più 2,2%. Sì, Telecom Italia si è messa in evidenza, sono anche movimenti tecnici, ricordiamo, perché sono le ultime sedute di operatività dell'anno. Nel caso di Telecom Italia appunto i trader sostengono si è trattato di un movimento tecnico, d'altra parte il mercato non ha preso in considerazione la notizia uscita in questi giorni che anche la SEC americana sta indagando sulla cessione di Telecom Argentina e ha dato peso anzi alle parole con le quali l'amministratore delegato del gruppo Franco Bernabé ha assolutamente rassicurato che c'è piena collaborazione tra Telecom e le autorità americane e questo non comporterà un rallentamento del processo di cessione. Grazie onorevole Michele, Radio Coriel, Sole 24 Ore. Si diceva di Mediaset e quindi questa è l'occasione anche per parlare non solo del riassetto con l'acquisto da parte di Telecinco, che è il gruppo Mediaset in Spagna, del canale televisivo 4 e della quota del 22% della Pay TV satellitare Digital Plus dal gruppo Prisa. Alla fine di questo riassetto il Biscione avrà il 41% della società spagnola, scendendo al 50,5% posseduto attualmente. Ma è anche l'occasione per ragionare, lo faremo dopo le informazioni sul traffico quanto mai attuali in questo momento, di un anno che si è chiuso con poche acquisizioni e fusioni, ma alcune anche degne di nota. 349-238-6666 per i vostri sms, molti di sms che arrivano sul la situazione in TIT, soprattutto a Milano, ci si chiede dove sono i vigili e come mai la città si blocchi per qualche centimetro di neve. La risposta non ce l'abbiamo. Allora, un anno che si chiude come il 2009, in cui obiettivamente, ed era da immaginarselo, sono diminuite anche le operazioni di acquisizione, di fusione tra società, però non necessariamente così tanto, soprattutto la qualità di queste operazioni è stata una qualità delle volte anche rilevante. Eh sì, perché oltre a Sanofi che si è comprata l'americana Chatham pagandola quasi 2 miliardi di dollari, Mediaset, ne abbiamo appena parlato, il canale televisivo spagnolo 4 e il 22% della Pay TV satellitare Digital Plus, Mapei che ha annunciato, l'italiana Mapei, l'acquisizione di Orgachim, azienda bulgara che produce pitture e vernici, e venivamo da una settimana in cui c'era stato l'annuncio dell'acquisizione da parte di Coin e di Upim, l'operazione Todini-Salini, ne abbiamo parlato in diretta a suo tempo, però oggi è stata perfezionata, la Salini Costruttore e la Todini Finanziaria hanno firmato un accordo in base al quale Salini acquisisce il 60% del capitale della Todini. Insomma, le cose si muovono e si sono mosse, anche se ripeto, su tassi più bassi, anche a livello europeo, come racconta questa scheda. Non è stato un buon anno per il mercato internazionale delle fusioni e delle acquisizioni e difficilmente ci si sarebbe potuti aspettare il contrario. Per l'intero 2009, l'OCSE ha stimato un calo del valore delle operazioni, dai circa 700 miliardi di euro del 2008 ai 316 miliardi di quest'anno, vale a dire il 56% in meno e la peggior flessione dal 1995. Tuttavia, chi aveva fieno in cascina è riuscito a trasformare la crisi in occasione di shopping e non sono mancate maxi operazioni degne degli anni d'oro. A farla da padrone è stata la farmaceutica, settore anticiclico per antonomasia e protagonista delle tre più importanti acquisizioni dell'anno. In primis, l'acquisto della Wyeth da parte di Pfizer per 47 miliardi di euro. Poi quello di Genentech da parte di Roche per 33 miliardi. E infine Merck, che ha messo le mani su Schering Plug, staccando un assegno di 28 miliardi di euro. Il botto di fine anno riguarda però il comparto alimentare, dove Kraft ha messo gli occhi sulla concorrente inglese Cadbury, offrendo agli azionisti 11 miliardi di euro. In un quadro internazionale complessivamente fiacco, l'Italia non ha fatto eccezione. Salvo sorprese dell'ultimissima ora, il 2009 si concluderà infatti con il peggior risultato degli ultimi 5 anni. Come rileva l'ultimo rapporto KPMG, il numero delle operazioni è sceso infatti dalle quasi 500 del 2008 alle 172 di quest'anno, per un valore complessivo passato da 56 a 33 miliardi di euro. A muoversi controcorrente è stato solo il comparto energetico, protagonista di 8 delle principali 10 operazioni dell'anno. A cominciare dall'acquisto da parte di Enel del restante 25% della spagnola Endesa e dall'acquisizione del 41% della belga Distrigas da parte di Eni, operazioni rispettivamente del valore di 9,6 e 1,9 miliardi di euro. E allora, come dicevamo, crollo complessivo di questa operazione di fusione e acquisizione, ma c'è chi ha approfittato della crisi, si fa per dire, per portarsi a casa anche a prezzi probabilmente più interessanti interi rami d'azienda o intere società. Dottor Fabrizio Baroni, partner associato di KPMG, buonasera. Buonasera. Allora, io ho l'impressione che se uno guarda il dato aggregato, cioè da 700 miliardi di euro nel 2008 a 316, dato faccia impressione, però abbiamo visto anche acquisizioni interessanti, mirate, che vanno a irrobustire, a consolidare gruppi nell'alimentare, nella moda, nell'energia e appunto i dati, quelli di oggi, anche nel settore delle telecomunicazioni. Sì, questa è una lettura sicuramente interessante, direi ottimistica, che condivido. Io lo prenderei come spunto per il futuro. È un dato di fatto che al di là dei numeri ci sono state sicuramente delle operazioni interessanti, perché comunque all'interno dei 38 miliardi di operazioni fatte in Italia o dei 300 fatte a livello internazionale è evidente che ci sono diverse operazioni che possono essere lette in modo positivo. Detto questo, è innegabile che quest'anno è stato un anno particolarmente complesso dal punto di vista dell'M&A e delle aggregazioni aziendali. Lo è stato molto di più all'inizio che alla fine, per ovvie ragioni. E diciamo che la cartina tornasole di queste ultime settimane, dove ci sono state due o tre annunci di operazioni, più citava lei Prisa, parlava il servizio dell'annunciata dell'OPA e delle annunciate contro OPA su Cadbury, diciamo che questo le ultime settimane secondo me sono la cartina tornasole di quello che potrebbe succedere nei primi 6-8 mesi dell'anno prossimo. Su questo volevo arrivare, perché poi se riparte l'economia e che riparte l'economia lo potremo capire anche dal numero di operazioni che si potrebbero concludere. Voi sul 2010 come siete? Noi siamo ottimisti anche perché direi che è difficile essere pessimisti. Beh, dopo il 2009 così. Che è successo nel 2009. Siamo ottimisti anche perché però ci sono dei segnali un pochino più concreti. Siamo ottimisti in primis perché la borsa, che spesso, anche se non è sempre così, ma spesso anticipa dei cicli a livello di M&A, sta andando decisamente molto bene, ha recuperato diverse posizioni e negli ultimi ormai 4-5 mesi ha tirato molto, e non solo come quotazioni di borsa, che possono far immaginare prospettive di IPO, quindi più legate, ripeto, al mercato delle quotate che il M&A puro, ma anche i corporate bond, le emissioni di corporate bond fatte e annunciate dovrebbero permettere a una serie di società di medio-grandi dimensioni quotate di avere se non avevano prima fino in cascina di mettere delle risorse in cascina per affrontare le opportunità che secondo me ancora ci saranno sul mercato. Quindi, se ho ben capito, lei dice alcune operazioni che abbiamo assistito, ne abbiamo parlato a lungo, di aumento di capitale e quindi di irrobustimento dell'aspetto patrimoniale potrebbero servire proprio per poi comprarsi dei bocconi o fare delle operazioni di shopping nel 2010? Assolutamente, o i corporate bond, quindi le emissioni, cioè, o l'emissione, chiaro, di obbligazioni societarie. Anche quelle per raccogliere soldi sul mercato. Voi quanto stimate possa essere l'incremento nel 2010? Allora, dubitiamo si possa ritornare sui livelli del 2008, ancorché il dato 2008 è ovvio che è influenzato in negativo dagli ultimi mesi, post Lima, post 16 settembre. Però immagina che ci sia una secca ripresa, adesso sarebbe da palla di cristallo dare una percentuale, però certo. Direi che ci si potrebbe collocare probabilmente tra i due numeri, tra quello che era il 2008 e quello che è stato il 2009. Comunque la cosa interessante è quella che le ricordava, cioè bisognerà prestare attenzione a tutti i gruppi, parlo a livello internazionale, non solo a livello italiano, che hanno il robusto del patrimonio o emettendo obbligazioni societarie o facendo aumenti di capitale, perché probabilmente hanno messo fine in cascina per poi andare a comprare pezzi di industrie, di società, a maggior ragione se alcune di esse dovessero avere problemi grossi o continuare a soffrire all'inizio del 2010, quindi ulteriormente indebolite. Grazie a Fabrizio Baroni, partner associato di KPMG. È tutto per questa puntata particolare, ahimè, di Focus Economia. Vi lascio anche il numero proprio per telefonare, dopo le 18 inizierà lo speciale dedicato alla situazione caotica, oltre ogni previsione, oltre ogni decenza, a mio avviso, visto che di neve stiamo parlando. Comunque, 800 24 00 24 per intervenire allo speciale di Radio 24. Da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani, neve permettendo.